sto baccano? Che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Decreti, vigilerò con rigore, continuerò a esercitare, nessuno ne dubiti, con rigore e trasparenza le prerogative attribuitimi dalla Costituzione. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Le parole che vi ho appena letto sono del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sono partito nella rassegna stampa con questa segnalazione sul quotidiano La Stampa, che aveva sollevato il problema, perché è raro che il Presidente della Repubblica in prima persona firmi un intervento che difende le sue prerogative. Vuol dire che ieri La Stampa aveva toccato nel vivo. E scrive Giorgio Napolitano sul quotidiano La Stampa che quella della presenza di Napolitano sulla stampa è quasi una notizia, cioè nel senso che, ripeto, non capita tutti i giorni che il Quirinale dica esplicitamente un suo pensiero rispetto a un tema così delicato come quello dei decreti e del ruolo della Quirinale stesso. Gentile direttore, scrive Giorgio Napolitano, ho vivamente apprezzato il senso delle istituzioni cui è respirato l'articolo di Michele Ainis pubblicato sulla stampa di ieri e la sua preoccupazione per ogni erosione delle prerogative e degli equilibri costituzionali. In Italia si governa come in tutte le democrazie parlamentari con leggi discusse e approvate dalle Camere nei modi e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti e solo in casi straordinari di necessità e di urgenza, dice Napolitano, con decreti, cioè provvedimenti provvisori con forza di legge che al Parlamento spetta decidere entro 60 giorni se convertire in legge. E ribadisce Napolitano, continuerò a esercitare a questo proposito, nessuno ne dubiti, con rigore e trasparenza le prerogative attribuitemi dalla Costituzione, quindi in qualche modo è una replica di Giorgio Napolitano, non solo al professor Michele Ainis che aveva detto qui c'è puzza di erosione dei poteri del Presidente della Repubblica, si vuole in qualche modo delegittimarlo, e qui Napolitano risponde: in quanto alla mancata elezione da parte del Parlamento del giudice costituzionale chiamato a sostituire il professor Vaccarella dimessosi dalla carica nell'aprile 2007, il professor Ainis ricorda di certo come nella storia della Repubblica accade più di una volta che si ristabilisce tardasse a lungo nel colmare simili vacatio per l'assenza di un accordo tra maggioranza e opposizione. Ma non accadde mai che la soluzione venisse trovata attraverso la contestuale contrattazione della nomina di un giudice costituzionale che debba succedere a uno dei cinque nominati dal Presidente della Repubblica. Non accadrà neppure questa volta, assicura Giorgio Napolitano, forse rassicurando in qualche modo anche Marco Pannella, che su questo punto sta facendo lo sciopero della fame. Stia certo il professor Ainis che considero semplicemente ingiuriosa l'ipotesi che il Presidente possa piegarsi a una simile impropria e prevaricatoria contrattazione tra partiti. Ecco, questo leggiamo sul quotidiano La Stampa, dicevo una notizia perché il Presidente Napolitano si esprime con una lettera pubblica su un tema delicatissimo di carattere costituzionale. Adesso naturalmente noi dobbiamo lasciare il Quirinale e andare al tema del giorno. Voi potete immaginare il tema del giorno qual è, basta guardare qualche titolo di giornale, insomma Il Sole 24 Ore, la caduta più pesante delle borse, e se volete Il Libero, salvi le banche, crolla la borsa. Scusate, Libero, Il Foglio, questo Libero invece titola "E adesso è panico", sospeso il titolo Unicredito, disastro delle borse, Europa in crisi, questo il Corriere della Sera, Riformista, il collasso, e ancora Il Giornale, è l'11 settembre delle borse europee. Quindi insomma come avete sentito, questo è il clima, questo è il titolo, borse il lunedì nerissimo, la stampa, ancora l'unità, borse peggio dell'11 settembre, qualcuno appunto si ripete, liberazione, panico, capitalismo, e la Repubblica, borse il giorno della paura. Ora, per stemperare diciamo questa drammaticità della situazione finanziaria, borsistica, economica mondiale, voglio partire però con due vignettisti, insomma forse sarà un modo per togliere un po' di allarme. Peraltro diciamo giustificato dalla situazione. Allora il vignettista Giannelli pubblica una vignetta sulla prima pagina del Corriere della Sera. Lunedì nero è il titolo della vignetta, ci sono dei rapinatori che escono da una banca e insomma la spalla attende, guarda e dice allora nemmeno un soldo, insomma la banca è senza soldi e quindi i rapinatori se ne vanno a mani vuote. E poi il manifesto affidato al vignettista Vauro, l'apertura praticamente della prima pagina. Allora dice: crisi borse, il Papa, e le parole del Papa sono: solida solo la parola di Dio. E c'è il Padre Eterno che risponde: sì sì, ma ora non cominciate a chiedermi prestiti. Queste sono le situazioni, diciamo, come i vignettisti vedono la crisi delle borse e quello che è avvenuto ieri. Ora voglio però, se andiamo nel merito, andare a vedere i quotidiani, voglio partire dal quotidiano La Repubblica, perché il quotidiano La Repubblica mi pare sia l'unico quotidiano ad avere un'intervista con Alessandro Profumo, il numero uno di Unicredit, la banca che è nell'occhio del ciclone, come si dice. Allora vediamo questa intervista fatta da Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica. Un'intervista a tutta pagina. Paghiamo anche i nostri errori, ma ora Unicredit è più forte. Questo è il titolo dell'intervista. Profumo: abbiamo sottovalutato l'avvento della crisi globale. Abbiamo fatto business in Russia, Kazakistan, Austria e Germania. Abbiamo fatto l'operazione Capitalia. Forse abbiamo esagerato, non lo nascondo, queste sono parole di Alessandro Profumo, sono un po' stanco, ma sono anche sereno, abbiamo fatto quello che dovevamo, ora la banca è più solida e più forte, abbiamo le munizioni giuste per affrontare una crisi che non è di un singolo, ma è di un sistema. Queste le parole molto nette di Alessandro Profumo. Dottor Profumo, cominciamo dal piano Monster da 6,6 miliardi di euro varato l'altro ieri. Lei è convinto che basti affugare i dubbi sulla tenuta di Unicredit? Io sono convinto che abbiamo fatto la cosa giusta. Nell'ultimo mese il mercato si è deteriorato in modo molto rilevante, direi al di là delle peggiori aspettative. Nessuno poteva immaginare che Lehman finisse come è finita. A questo clima di preoccupazione generale sui mercati si è aggiunta una fortissima volatilità del nostro titolo. Ecco, questo Profumo, vedremo se riusciamo a dopo le anticipazioni del GR a guardare a qualche altro passaggio dell'intervista a Alessandro Profumo, perché appunto sappiamo che questa banca è la più forse penalizzata in questi giorni dalla crisi finanziaria in atto. L'economia di mercato non ha dato una gran prova di sé, ma la soluzione non è nello Stato padrone. Questo Alessandro Profumo nell'intervista al quotidiano La Repubblica, sì, ancora lui, l'avevamo già citato, il titolo: paghiamo anche i nostri errori, ma ora Unicredit è più forte. Infatti l'intervistatore, cioè Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, chiede: insomma, lei è tranquillo, è convinto che Unicredit sia un gruppo assolutamente sano, che non rischia nulla? Lo ripeto ancora una volta, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma la banca è sempre stata solidissima e ora lo è ancora di più. Per questo ha comprato personalmente titoli per 308.000 euro? Se non ci credo io, chi deve credersi? Si sente di escludere che altre banche italiane possano andare in crisi? Il sistema bancario italiano è assolutamente solido, e aggiungo che l'Italia ha un vantaggio rispetto agli altri paesi. Il peso della nostra industria rispetto al PIL è poco inferiore a quello dell'industria tedesca, con una differenza che può sembrare paradossale: noi abbiamo pochissime grandi imprese e questo è un fattore di debolezza nella proiezione internazionale perché priva il paese di reti lunghe nella globalizzazione, ma nei momenti di crisi proprio questa struttura industriale così polverizzata e diffusa ci mette al riparo. Ecco, questa un'analisi di Alessandro Profumo. Il quotidiano La Repubblica affida invece a Federico Rampini una delle analisi, la spirale delle tre crisi. Il panico globale e la massiccia distruzione di ricchezza sono amplificati dallo spettacolo di impotenza di tutte le autorità mondiali, governi e banche centrali. Questa crisi, scrive Rampini sulla Repubblica, assume dimensioni che nessuno riesce più a padroneggiare. Ci sono troppi incendi da spegnere contemporaneamente e in troppi luoghi diversi. Gli strumenti tradizionali della politica economica monetaria sono soprattutto sopraffatti e superati. E dice ancora, scrive ancora Rampini, sono almeno tre le crisi che si sovrappongono alimentandosi a vicenda in una spirale che si avvita su se stessa. La prima in ordine di importanza assoluta è la crisi del credito. Non è solo crisi di fiducia dei depositanti e degli azionisti verso le banche, ma collasso nella fiducia tra le banche stesse. La seconda crisi, che acquisterà maggiore peso nei prossimi mesi, è una recessione dell'economia reale destinata a stremare l'Occidente intero per un periodo non breve. La terza è quella che fa più notizie, cioè il tracollo delle borse. Questa è la diagnosi di Federico Rampini, ma sui quotidiani troviamo anche critiche esplicite che vengono da molto lontano alla politica americana e soprattutto al piano Paulson, e andiamo a vederle, perché non solo il giornale, ma prendiamo il giornale in all'interno, a parte che titola è l'11 settembre delle borse europee, ma come vedremo, ecco, sì, il giornale intervista il capo economista del gruppo giapponese, un gruppo enorme, Nomura. Paulson sbaglia e per uscire dalla crisi l'Europa deve cancellare i vincoli di Maastricht, e questa è una scelta molto forte. Dice, la soluzione è iniettare nelle banche denaro pubblico, non comprare titoli spazzatura. Questo lo ha fatto Roosevelt nel 1933, ma l'America non ha memoria. È questo che dice Richard C. Coe di Nomura. È una critica molto dura, tra altre cose raccolta dal giornale, perché proprio Geminello Alvi sulla prima pagina del giornale avanza l'ipotesi, sospendete Maastricht, e andiamo a vederlo in modo esplicito. Lo dice alla conclusione della sua riflessione Alvi, dice: allora, e quanto dobbiamo attendere poi perché le varie eminenze mandarine della UE a Bruxelles prendano atto dell'evidenza, rivedano, sospendano Maastricht, considerando che il salvataggio di una banca tedesca da sola da parte dello Stato farebbe saltare il deficit. Il vantaggio di una crisi grave è che in stato di eccezione il gioco diventa scoperto, chiaro a tutti, si veda chi comanda davvero, è ora che ce lo dimostrino. Cioè dice, insomma, sospendere Maastricht vorrebbe dire consentire quindi salvataggi di banche e non definirli aiuti di Stato. Ecco, questo il giornale tra le altre cose in taglio medio titola: un assessore guidava la sommossa, Napoli, le intercettazioni della rivolta antidiscarichi, il regista era un uomo della giunta Iervolino, la camorra vuole il disordine e per combattere lo Stato utilizza una strategia ben precisa, creare il caos ovunque sia possibile, è per questo che foraggia le curve delle squadre di calcio campane e invia gli agitatori contro qualsiasi tentativo di aprire una discarica. Centinaia di intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, fotografie, video degli scontri. È imponente il materiale raccolto nell'ordinanza del GIP Luigi Giordano sui 40 arresti per gli scontri di pianura. Ecco i passaggi più eclatanti. Un ultra, per esempio, dichiara: sai, ci danno pure i soldi a noi. L'arsenale è guerriglia stasera. A guidare la rivolta un assessore della giunta Iervolino, cosa peraltro gravissima. Tra le altre cose, alcuni giornali ipotizzano che oltre all'assessore della giunta Iervolino ci fosse anche un esponente di un partito della maggioranza di governo. Poi, vabbè, ci sono giornali, si dedica anche alla da Barracuda a Dolly, la metamorfosi di Lilli Gruber, e poi nel PD cresce la fronda dei veltroscettici, cioè degli scettici nei confronti di Veltroni. Peraltro, a proposito di Veltroni, bisogna dire che c'è una vignetta, scusate, il solito Iena sulla Stampa, che è molto divertente, molto sarcastico. Un mammifero su quattro è in via di estinzione. Nei prossimi anni rischiano di sparire orsi polari, tigri, gorilla, ippopotami e beltroni. Questo alias Iena, alias Riccardo Barenghi, sul quotidiano La Stampa. Ora il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, come vi dicevo, titola con un titolo drammatico: la caduta più pesante delle borse, e poi affida a Marco Onado una delle riflessioni su quello che sta accadendo. E vediamo cosa scrive Marco Onado, l'economista Marco Onado. I mercati sono in preda al panico ed è ormai evidente che più le autorità cercano di tranquillizzarli, più l'allarme si diffonde, come dimostra il crollo di ieri delle borse. Il motivo fondamentale è che, nonostante le parole rassicuranti e i sorrisi radiosi con cui sono conditi i comunicati dei governi europei, siamo ancora a interventi caso per caso, in cui si cerca di affrontare singolarmente i focolai d'incendio, alimentando i timori di ulteriori punti di crisi e lasciando i singoli intermediari allo sbaraglio. Questo scrive Onado. Gli Stati Uniti hanno commesso lo stesso errore strategico, con l'aggravante di aver sottovalutato gli effetti sistemici della decisione di far fallire Lehman, ma l'Europa da una settimana a questa parte ha inanellato una serie di decisioni in cui ciascun paese ha cercato di proteggere le proprie banche e i propri risparmiatori, con risultati esattamente contrari alle intenzioni. Ognuno è andato per la sua strada. Questo dice Marco Onado sul Sole 24 Ore, e sottolinea che questa è la critica, una delle critiche più forti, quella di non aver trovato poi un indirizzo comune, e quando è stato trovato, come a fatica negli Stati Uniti, ha mostrato, come diceva il rappresentante della Nomura, tutti i limiti. Ora, tra le altre cose, il Sole 24 Ore, diciamo così, è costretto a registrare che dentro la crisi delle borse, e dentro la crisi delle borse compresa quella italiana, c'è una crisi ancora più grave, e che riguarda Telecom. Telecom sale il pegno alle banche, ed è Antonella Olivieri che se ne occupa nel dorso Finanza e Mercati. Telco reintegra i margini sui prestiti, portando le garanzie al 20% del capitale. Nel mal comune mezzo gaudio, scrive Antonella Olivieri sul Sole 24 Ore. Ci si potrebbe accontentare di questo, ma la nuova ondata ribassista che sta tormentando i mercati complica oggettivamente un po' i piani di Telecom Italia, che in borsa ieri è scesa per la prima volta sotto quota 1 euro, senza peraltro che fosse ravvisabile una causa specifica addebitabile al gruppo delle TLC nazionale. La società guidata da Franco Bernabè ha concluso la seduta a 0,953 euro, con un calo dello 10,85%, quindi un calo superiore alla media con cui è caduta la borsa italiana, e che è più che doppio rispetto alla flessione dell'indice stock settoriale europeo, sceso a sua volta del 4,9%. Insomma, ecco, anche dentro, come dire, quindi i malesseri delle borse mondiali, c'è anche, dice il Sole 24 Ore, questa crisi incipiente. Ora di Telecom, che non c'è a diminuire. Il Corriere della Sera invece ci propone un'intervista di Mazzotta. La buona finanza e l'avidità smodata. È Gian Guido Vecchi che lo intervista. A un banchiere non si chiede di fare il francescano, però noi abbiamo conosciuto un'epoca di avidità smodata, dice Mazzotta in questa intervista al Corriere della Sera. Allora, non resta che il Padre Eterno? Senta questa. Il problema economico non è, se guardiamo al futuro, il problema permanente della razza umana. Vedo quindi gli uomini liberi tornare ad alcuni dei principi più solidi e autentici della religione e delle virtù tradizionali. Chi l'ha scritto? Un altro papa? No, John Maynard Keynes, in Esortazioni e Profezie, sorride Roberto Mazzotta, presidente della Banca Popolare di Milano, per dire che queste cose non le pensa solo chi ha fede o una concezione etico-religiosa, ma tutti coloro che non considerano la persona uno strumento. A lei, banchiere cattolico, che effetto fa sentire dire dal papa che il denaro è niente? È un errore pensare che il papa faccia l'economista. Il papa fa il papa, ha espresso considerazioni ontologiche ed etiche, ma il punto è questo: sarebbe sbagliato ritenere che le considerazioni del Santo Padre siano di parte o esprimano solo una delle concezioni possibili, se le diceva pure Keynes. Insomma, ecco, Mazzotta quindi pone il problema, il bacchiere cattolico dice non c'è economia libera senza etica. Il Corriere della Sera, vi dicevo, le malattie di Wall Street, Alberto Ronchey, è stata affidata a lui l'editoriale di prima pagina. Scrive Ronchey: all'origine di questa odierna calamità, in particolare, stanno due dati. Negli Stati Uniti troppa gente ha voluto comprare case a credito senza sapere come pagare il debito. Nello stesso tempo, troppe banche hanno prestato denaro senza garanzie né risorse adeguate a reggere i rischiosi mutui subprime, allo scopo di gonfiare bilancia e insieme guadagni o benefici manageriali. Non è tutto. Disparati espedienti e intricati artifici tecnici hanno consentito gravi abusi contro i risparmiatori, malgrado la pretesa trasparenza del sistema sui depositi e investimenti. Gli osservatori di simili fenomeni, ancora una volta, dissertano sull'incondizionata o discutibile fiducia verso il sovrano mercato in alternanza con il periodico ricorso al munifico e soccorrevole Stato. Ma qualche voce tende pure all'ipotesi che il celebre Homo economicus in certi casi non sia del tutto sano di mente. Questo scrive Alberto Ronchey sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ora, quindi non sia sano di mente, quindi neanche tanto razionale come si fanno studiare a scuola. Il Corriere della Sera, come altri giornali, avete sentito anche dai GR, dedica Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, due giornalisti giudiziari di punta del Corriere della Sera, al crack Parmalat. 13 anni a Tanzi, la requisitoria del PM, la vicenda è un brutto film di mafia. E l'ex patron, richiesta esagerata, dice. E c'è il PM, Francesco Greco, attacco di Greco agli istituti di credito coinvolti. Sono stati loro a convincere il mercato che era un'azienda solida. Questa è la pesantissima accusa che viene dal processo Parmalat, che abbiamo già sentito, ma insomma così è il Corriere della Sera. Poi affida invece a Massimo Ucchetti un'analisi su Unicredit, tre mosse e un insegnamento, che vi invito a leggere sul Corriere della Sera. Il quotidiano Libero titola: sospeso il titolo Unicredit e adesso è panico. Nonostante i tamponi, la più grande banca italiana perde sangue. La poltrona di Profumo traballa e l'euro soffre. L'Europa segua le indicazioni di Berlusconi e Sarkozy. Questo Oscar Giannino, mi pare sia vice direttore del quotidiano Libero, sulla prima pagina. Un bollettino di guerra, ma non da guerra di trincea. Da giornate tragiche come Caporetto e la battaglia di Cannes. Waterloo o la Beresina. Bisogna iniziare ad avere un po' di capelli bianchi, o almeno il resto di un po' di capelli nel mio caso, per ricordare giornate di borsa tanto drammatiche quanto quella di ieri. Per la borsa italiana, con il suo meno 8,24%, la seduta peggiore da anni. Per i listini europei addirittura la peggiore discesa complessiva in 21 anni, dal lunedì nero del 1987, quindi peggio, come è stato detto, dell'11 settembre. Giorno tragico di attacco alla Twin Towers. Il quotidiano Libero dà anche spazio invece a una storia, diciamo, meno politica, lateralmente politica e anche personale. Una notte in discoteca col cavaliere tronista. Il cavaliere tronista è naturalmente Silvio Berlusconi. È vero, non riesco a dormire più di 3 ore a notte, come Napoleone. Sabato notte in un locale di Corso Como, il Lotus, 20 ragazzi che lo affiancano al tavolo, qualche modella e il Presidente del Consiglio fa l'alba in discoteca, tutti a bocca aperta a sentire le parole del Premier che sorseggia cocktail rigorosamente analcolici e improvvisa un autentico show per pochi amici. Sono le 3 di notte e lui è ancora in piedi. E c'è di più: voi adesso ve ne andrete a dormire fino a mezzogiorno, io tra poche ore devo andare ad una inaugurazione. E insomma, golf, girocollo, pantaloni sportivi, il Premier parla di tutto, economia, politica, politico, politica estera, racconta aneddoti e fa battute. Ecco, è il Berlusconi pubblico e privato che passa dalle considerazioni politiche sulla maggioranza, sull'opposizione, a invece considerazioni di carattere personale. Il quotidiano Il Riformista ci spiega, allora intanto il titolo è Il collasso, borse a picco, i mercati non credono più ai governi e alle loro regole. Questo scrive Franco De Benedetti sul quotidiano Il Riformista. Dopo una settimana di fuochi, rimedi messi in atto da governi e banche non hanno evitato che la nuova cominciasse con una giornata drammatica in borsa. Ci vogliono nuove regole, si dice, senza rendersi conto che l'affermazione che si vorrebbe confortante è in realtà problematica. Dire che ci vogliono nuove regole equivale a dire che quelle esistenti sono sbagliate, e se sono sbagliate allora a sbagliare sono stati quelli che le hanno scritte, e siccome tutto ha conseguenze sulla taxation e quindi implica la responsabilità della representation, a scrivere devono essere i politici. Questo è Franco De Benedetti, mentre Marco Ferrante ci spiega perché Cesare Geronzi, il banchiere, il noto banchiere, ha lanciato un salvagente al giovane Profumo. E anche qui chi è appassionato di non intrighi ma insomma di storie della finanza può leggere questa cosa. Unicredit ha chiuso la seduta di ieri con una perdita del 5,9%, questa è stata la reazione della borsa, scrive Ferrante, al piano di ricapitalizzazione da 6,6 miliardi approvato domenica dal Consiglio di amministrazione della banca. Ora gli osservatori e il mercato si chiedono in che modo la difficile situazione di Unicredit e del suo amministratore delegato Alessandro Profumo si riverbererà sugli equilibri del sistema economico e finanziario italiano, e questo cerca di spiegare Ferrante. Vi è anche Monnezza, Napoli, cronache di uno scontro di inciviltà. Marco De Marco che firma questa cosa. Manifesto, vi dicevo, la vignetta carina su Crisi Borsi, il Papa solida solo la parola di Dio, sì, ma ora non cominciate a chiedermi prestiti, e Galapagos che firma l'editoriale di prima pagina, la prossima truffa, e ancora il commento di Tonino Perna, le piramidi albanesi di Wall Street. Questo si legge sulla prima pagina del quotidiano Il Manifesto, che valuta in modo molto pessimistico il lunedì nerissimo per le borse. E ancora il foglio salvi le banche, crolla la borsa, mentre io volevo segnalarvi sull'Unità, sì, le borse peggio dell'11 settembre, ma i titoli sono quelli, invece un articolo di Umberto Veronesi che scrive tre Nobel contro i mostri, cancro e AIDS. C'è tutta una pagina dedicata a il professor Luc Montagnier, François Bar-Sinoussi e Harald Hausen, e sono Sinoussi, Montagnier e Hausen, una vita contro i virus. I Nobel per la medicina assegnato a tre europei, una donna e due uomini. I primi due francesi hanno scoperto l'HIV. Il terzo tedesco ha rivelato che il papilloma è responsabile del tumore al collo dell'utero. Umberto Veronesi vuole spiegare perché dobbiamo essere onorati di questi tre uomini, anzi di questi due uomini e una donna. È finito il mio tempo della rassegna stampa, vi do appuntamento come di consueto al microfono aperto, potrete telefonare anche prima delle 8:30 all'800 24 00 24 per intervenire in diretta. A dopo.